il mondo che si rispecchia negli occhi tuoi è quello dove io vivo coi sogni miei. E quando con un sorriso mi svegli tu, il mondo diventa rosa ed il cielo blu. Io vivo di fantasia, d'amore e di poesia, per questo la gelosia non so cos'è. Giovinezza degli anni tuoi, a chi dovrei domandare qualcosa in più, se questo me lo puoi dare soltanto tu.